spalle, nemici tutti bavosi, nessuno dei quali si salvava mai la pelle. In certi film era amico degli indiani, erano finte, sembravano un po' strani. In certi film era amico degli indiani, ma guarda il gringo, quello sembra il gringo, sì ma che denti era che ha. È il gringo, quello è proprio il gringo, sì però che rughe che ha. È il gringo, tempo fa era il meglio e ora cosa si crederà. È il gringo, sembra uno sbadiglio e comunque non cambierà. Accende un fuoco un po' per i coyotes, ma più che altro per le artriti. Ha avuto un giorno pesante fra nuovi bersagli e taglie ed ex banditi. In certi film era amico degli indiani, erano film che sembravano un po' strani. In certi film era amico degli indiani,